Tempo di sport con Carlo Genta. Ha vinto Francesca Schiavone, si chiude così 7-2 il tie-break del secondo set. Sono le 16:50 del 5 giugno del 2010. Un'italiana vince il Roland Garros per la prima volta nella storia del nostro tennis. Che partita e che tie-break ha giocato Schiavone. Buongiorno a tutti, in questo modo, beh, l'ora e il minuto l'avete sentito attraverso i microfoni di Eurosport. In questo modo Francesca Schiavone è entrata nella storia del tennis, come dicevo prima, e nella storia del nostro sport. Dopo Nicola Pietrangeli 1959 e 1960, dopo Adriano Panatta 1976, che l'avevano preceduta sul trono di Parigi, ecco la prima donna italiana ad arrampicarsi, la prima tennista italiana ad arrampicarsi così in alto. 800 24 00 24 per i vostri pareri, le vostre opinioni nel corso di questa puntata, in cui ovviamente non possiamo che partire da qui, ma parleremo di molto altro, perché molto altro c'è oggi sul fronte sportivo, non sono tutte notizie liete. Ma prima quelle liete, appunto, andiamo subito a Roland Garros da Igor Fiatti. Buongiorno Igor. Sì, buongiorno a voi. Partita perfetta della Schiavone. Partita perfetta, tanto che alcuni miei colleghi molto più anziani, che hanno lessato qualche decennio di tennis, non hanno potuto nascondere la loro sincera commozione. Francesca Schiavone è arrivata a questa finale compiendo un'impresa storica, unica, e non ha sbagliato praticamente nulla, c'è da dire. Intorno ai 38 ha archiviato la pratica, annichilendo totalmente la Stosur, molto più potente, era data per favorita nei pronostici. Solo per dirvi una cosa, poco prima della partita avevo incrociato l'ex campionessa Martina Navratilova, che ancora tutti ricordano, e le avevo chiesto un pronostico così al volo, e anche lei mi aveva detto che la Stosur avrebbe vinto facilmente. Ebbene, poi così non è stato. Francesca Schiavone ha vinto molto molto agevolmente, con una partita perfetta, aggressiva, alternando colpi di precisione, affondi, un tennis quasi maschile, direi, completissimo. Sì, completissimo. Tennis maschile è stato definito quello della Stosur da Jelena Jankovic, che l'altro giorno ha prese secche da questa tennista, era stata letteralmente spazzata via dal campo. La Stosur aveva tutti i favori del pronostico, però la Schiavone fin dall'inizio aveva la faccia di chi avrebbe vinto questa partita, lo dicevo prima, senza possibilità di appello. 6-4 nel primo set con un unico break della Schiavone, che è partita male, Igor, nel secondo set ha subito il break, esatto, e poi è stata bravissima lì a risalire. Come dicevi te, per epilogare, il primo set è stato in realtà all'insegna dell'equilibrio assoluto, equilibrio che si è spezzato al nono gioco, quando la nostra giocatrice ha strappato il servizio all'avversaria e poi l'ha portato a casa il servizio 6-4. Nel secondo set invece le cose si sono messe male al quarto gioco, quando la Stosur ha rubato il servizio invece alla nostra Schiavone, ma Schiavone non ha mollato, ha continuato, è stata ancora aggressiva, e così è arrivato il contro break al settimo gioco, e infine il capolavoro del tie break, un tie break letteralmente dominato 6-2 e portato a casa convertendo il primo match point, che dire, storico e quant'altro. Adesso i nostri colleghi si sbizzarriranno e si cervelleranno per trovare gli aggettivi giusti domani sulle prime pagine. Certamente, brava Schiavone, ma una mosca bianca in un tennis italiano morto morente, scrive a torto un ascoltatore, perché il tennis italiano secondo me non è mai stato così in salute. Basta fare la conta delle Confederation Cup che Schiavone, Pennetta, queste ragazze hanno vinto negli ultimi anni. Il tennis italiano non è mai stato così bene, in realtà, cari ascoltatori. Igor, prima di salutarti vorrei che tu raccontassi invece cosa è successo subito dopo quel punto del 7-2 nel tie break che ha dato alla Schiavone Roland Garros. Ebbene, ho visto anche delle lacrime, come ti dicevo, tra i nostri colleghi che hanno qualche decennio di tennis alle spalle, quindi una commozione che nessuno ha potuto nascondere per questa impresa. Dopodiché la nostra tennista ha ricevuto la coppa direttamente dalle mani dell'ex tennista Mary Pearce, e scambiando qualche parola in inglese ha dedicato la coppa a sua mamma e a suo papà. Questo è il pensiero della nostra tennista. ha baciato la terra rossa di Parigi, si è arrampicata fin sulle tribune e si è tuffata nel clan familiare, in cui prima fila naturalmente c'era Corrado Barazzutti, che è il suo CT, ma anche il suo allenatore, l'abbiamo sentito anche l'altro giorno, insomma. Esatto, lei ha detto: io non ho bisogno di Mourinho tifoso interista, a me basta avere Barazzutti. Sì, che non è esattamente Mourinho, però è certamente come Mourinho un grande vincente Corrado Barazzutti. Grazie Igor, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie davvero Igor Fiatti. Dunque abbiamo così riassunto in cronaca questa impresa, questa partita perfetta, questo pomeriggio memorabile per lo sport italiano. Tra poco torniamo a parlarne, se volete commentare 800 24 00 24, numero verde, e non perdetevi, se non le avete viste, le immagini di questa partita e di quell'esultanza in cui c'è tutto, no? C'è tutta la... Insomma, gioia è riduttivo secondo me, c'è tutto ciò che può provare una tennista di 30 anni che mai era arrivata così in alto, che probabilmente mai nemmeno aveva sognato di arrivare così in alto, e che invece oggi ha alzato una delle coppe più importanti del tennis mondiale, cioè quella del Roland Garros, torneo del Grande Slam, il campionato del mondo sulla terra rossa. Io non penso che oggi la Schiavone fosse battibile, non dalla Stosur ma da nessuno, perché davvero ha giocato con una concentrazione che non ammetteva repliche. Io non so se tra i colleghi di lunga militanza tennistica che avevano gli occhi lucidi, come ci ha raccontato prima Igor Fiatti, ci fosse anche Vincenzo Martucci, una delle penne di riferimento del tennis italiano. Ciao Vincenzo. Ciao. Ti sei commosso anche tu? Certamente sì, era impossibile non commuoversi. Io non pensavo, dopo 30 anni di tennis, che di poter vedere una cosa del genere. Ce l'ho fatta, l'ho vista, sono felice, e sono felice per lei. È una cosa incredibile diventare campioni del Roland Garros, per uno poi che è cresciuto sulla terra rossa come Francesca, una che ha quasi 30 anni, una che veramente si è costruita pezzo a pezzo, ha avuto mille problemi, deve essere una cosa pazzesca, devastante. Vincenzo, io ho avuto l'impressione che oggi Francesca fosse imbattibile. Ma come emozioni sicuramente sì. Io ne ho appena parlato con Martina Navratilova, dice, hanno vinto le emozioni, ha vinto la passione, ha vinto questa carica che lei aveva, ma ha vinto anche prima perché ha tenuto il grande servizio della sua avversaria, e entrando nel servizio è riuscita a tenere a lungo la partita, a farla nervosire, è riuscita pian pianino a smantellare la forza mentale della sua avversaria, e quindi è venuta fuori lei con le sue grandi passioni, il suo questo rovescio incredibile. No, io non so quante partite i nostri telespettatori hanno visto, ma io nella mia carriera non ho visto tante donne andare a rete col rovescio slice e chiudere la volée, ne ho viste pochissime, veramente pochissime, la Novotna, Navratilova, non so, pochissime altre. Non c'è dubbio sul fatto che oggi Francesca, su quella terra rossa che tanto ama, sia la numero uno al mondo, oggi. Sai, su queste cose diventa sei del mondo, ma insomma questo secondo me nella sua testa vale veramente, è un granellino di quella sabbia che ha baciato, per lei vincere questa cosa qui, 7 partite di fila, tenere di testa, superare avversari che sono evidenti, avversari che non sono evidenti, perché lei contro Kulikova aveva praticamente perso, ha battuto giocatrici durissime come Dementieva, perché non guardiamo al fatto che la Dementieva si è ritirata dopo un set, Dementieva forse non sarebbe riuscito a finire la partita contro questa Francesca Schiavone, ha battuto anche se stessa, perché voglio dire, non è altissima, non è fortissima, non ha un colpo del KOE, però ha mille cose questa ragazza, che messe insieme fanno sì che oggi veramente ha fatto uno spettacolo. C'erano anni che non vedevamo una bella finale del Roland Garros, certo. E l'80% di questa bellezza la dobbiamo a lei. Certo, Vincenzo, ti chiedo ancora questo, per il tennis italiano, in particolare quello femminile, che sta vivendo il momento più bello della sua storia, più alto, in questo successo che cosa aggiunge? Questo successo che cos'è? È il premio alla nostra sofferenza. Noi quando ci ritrovavamo in sala stampa dopo tutte le volte alla fine dello slam, noi dicevamo, ci guardavamo in faccia, noi vecchi, perché io ho 53 anni, ma mi ritengo ormai purtroppo un vecchio, mai una gioia. è il premio a tanti bocconi amari buttati giù su questo campo, anche con Starace contro Safin, è la finale di Coppa Davis che perdemmo contro la Svezia per un braccio rotto, la spalla rotta di Gaudenzi, è il premio perché non torniamo in Serie A di Coppa Davis, è il premio perché abbiamo vinto due Fed Cup, è un premio diciamo a tanti anni di difficoltà per un tennis che è cambiato, che non è più quello di Pietrangeli e Panatta, è un tennis molto fisico, è un tennis che richiede grandi sacrifici e è un tennis di queste ragazze che sono lei, la Francesca Schiavone, anche la Pennette, anche la Garbini, anche la Vinci, la Errani, sono delle ragazze, delle donnine di ferro, ecco. Ora speriamo che questo serva da traino perché faccia vedere che questo è uno degli sport più belli del mondo, stiamo parlando di uno sport bello, difficile ma bellissimo. Grazie Vincenzo, buon lavoro. Ciao. Grazie davvero Vincenzo Martucci, penna, si è definito lui stesso, sono vecchio di questo mestiere, 30 anni nel tennis, e per la Gazzetta dello Sport. Ho già due ascoltatori in linea che credo vogliono parlare di quanto hanno visto e quanto hanno vissuto oggi pomeriggio. 800 24 00 24 è il numero verde, poi ci toccherà parlare anche di note meno liete perché come sapete la mattinata ha tolto invece per il momento dal panorama dello sport italiano uno dei campioni più grandi, Valentino Rossi, che è caduto, si è fatto male, si è infortunato e per lui il mondiale è finito, ma tra poco vi raccontiamo tutto. Gabriele da Macerata, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo solamente dire una cosa, lei ha detto benissimo che è uno sport bellissimo da promuovere, però ecco, io facevo questo tipo di critica, che la RAI non ha coperto questo evento, cioè come non è possibile, no, che un campionato del mondo sulla terra di tennis non sia coperto dalla rete nazionale. Io ecco volevo dire questo, volevo fare questo tipo di critica, perché parliamo di promozione del tennis e parliamo di eventi, e però quando guardi, sono questi eventi Gabriele, la RAI... ma a parte il fatto che mi pare fosse su Rai 2. No, non c'era su Rai 2, assolutamente. Non, io ho visto su tutti i programmi, non c'è stato. Ma comunque qui stiamo parlando di mercato dei diritti televisivi. Però questo evento, ma capito, è una finale del campionato del mondo di tennis. E lo so. Importante, non so quanti milioni di italiani giocano a tennis, ma più che altro per questi ragazzi, sì. Perché sappiamo benissimo che se il tennis è vissuto ad alti livelli, è visto ad alti livelli, forse porterà qualche ragazzo in più a giocare a tennis, no? Se no che promozione è per noi, sì. Noi cinquantenni, noi quarantenni e basta. Io volevo dire solo questo. Sì, benissimo, ha fatto bene, però a parte il fatto che confermerà su Rai 2, quindi gran parte di questo discorso insomma decade, però stiamo parlando qui non di una finale di tennis, ma stiamo parlando di mercato dei diritti televisivi. Dunque di questo parliamo, poi possiamo discutere sul pubblico interesse, sul diritto di chi paga il canone ad avere spettacoli di questo tipo. Io la penso in maniera un po' diversa, insomma nel 2010 stiamo parlando di diritti televisivi, di sport in chiaro, di sport incriptato, insomma sono discorsi molto, molto complessi. Comunque confermo, disinnesca questo discorso il fatto che eri in onda su Rai 2. Giovanni, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Mi abbassi la radio per favore, grazie, sennò sento male. Grazie. Grazie. Buongiorno. Senta, no, anch'io ho steso due lacrime, età 49 anni, mestiere preparatore atletico, insegnante di tennis, scrivo anch'io di tennis. Sì. Quindi diciamo così, le emozioni forse hanno qualche strumento in più per manifestarsi, ma con sì, grande gioia. Ecco, no, io volevo fare un piccolissimo appunto, ho sentito più di un intervistato o comunque fare delle affermazioni del genere, questo è un tennis sostanzialmente maschile. Ecco, io in realtà non sono molto d'accordo, nel senso che secondo me... In che senso in maschile? Questo tipo di tennis giocato... Sì, questo tipo di tennis giocato oggi durante la finale. No, non sono d'accordo nemmeno io. Io sto con lei. Chiaramente voleva essere probabilmente un complimento per dire che... Però in realtà è semplicemente il tennis che oggi è, che domani sarà sempre di più così. Ecco, diciamo che è un po' quello che è il compito di chi allena, cercare di capire come evolverà una disciplina, sì, e come sarà in futuro. Secondo me ci saranno sempre più donne che giocheranno questo tennis femminile, sì, femminile, assolutamente femminile, sì, perché se una donna riesce a fare tre volte, Giovanni, lei che ha detto ai lavori sa meglio di me, no, ci si fa molta confusione, è indubbio il fatto che tutto lo sport, non solo il tennis, non solo maschile e femminile, non c'entra una distinzione, tutto lo sport è diventato oggi molto più fisico rispetto a quanto non fosse in passato. Il tennis giocato oggi da Schiavone è un tennis magnifico, punto e basta, secondo me, dal punto di vista tecnico. Non capisco come possa essere definito un tennis maschile. Schiavone non è una tennista che ha il colpo del KO, come diceva giustamente prima Vincenzo Martucci, ma ha una varietà di soluzioni, di colpi, di possibilità di variare il tema della partita, di soluzioni anche tattiche. Insomma, questo è tennis bellissimo, punto e basta. Non farei alcuna distinzione tra maschile e femminile, queste altre cose, no? Non trova? Emozioni. È riuscita a fare tutto e il contrario di tutto, proprio cogliendo sempre alla sorpresa praticamente la sua avversaria, anche rispetto a certi dettami tattici che sono classici. In determinate situazioni è riuscita a capovolgerli, a fare il punto in una maniera straordinaria. Quindi tanto di cappello davvero le donne a questo tennis estremamente femminile, perché secondo me ha mantenuto la sua delicatezza tipica del tennis femminile. Assolutamente, ha ragione da vendere Giovanni, come diceva d'altra parte prima Vincenzo Martucci. Insomma, anche un certo modo di chiudere punti a rete. Insomma, la partita di oggi è stata magnifica. Poi, al di là del fatto che eravamo trasportati dall'emozione, al di là di tutto questo, al netto delle sensazioni che in noi ha fatalmente suscitato, è stata una finale bellissima, è stata una partita perfetta quella di Francesca Schiavone. E hanno ragione anche gli ascoltatori che scrivono, ad esempio, non mi intendo molto di tennis, ma la grinta traspirava da ogni poro oggi da Schiavone. Non ce ne sarebbe stata per nessuna, oggi le batteva tutte, anch'io ho avuto questa stessa impressione. Insomma, è scesa in questa partita con una concentrazione, con un agonismo, con una preparazione mentale che ci ha fatto capire fin dalle prime battute di questa gara, di questo match, io credo che oggi non ce ne sarebbe stata per nessuna. Mi pare ormai assodato che il primo ascoltatore intervenuto oggi si sbagliava, perché una reprimenda sulla Rai, perché come confermano diversi sms, come d'altra parte detto già prima, gli spettatori di Rai 2 in chiaro hanno potuto oggi vedere la finale del Roland Garros, di cui tra poco torneremo a parlare. Tra l'altro, Francesca Schiavone con questa vittoria si arrampica anche in classifica, laddove nessuna tennista italiana era mai arrivata, cioè al numero 6 del ranking mondiale che verrà stilato lunedì, e dunque Francesca sarà numero 6 al mondo. Tra poco torneremo a parlarne con i nostri ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero verde, ma prima, come anticipato, voglio raccontarvi un'altra cosa che è molto meno lieta, anzi di segno totalmente opposto, è accaduto questa mattina al Mugello. Ce la facciamo raccontare da Massimo Di Scienza, buongiorno. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Cosa è successo? Giornata che per una numero uno del tennis italiano è andata benissimo, per il numero uno del motociclismo mondiale e da anni Valentino Rossi invece è assolutamente da dimenticare. Ironia della sorte, il pilota che meno di tutti in carriera ha dovuto fare i conti con sale operatorie, con ospedali, con bisturi e chirurghi, invece a 30 anni suonati è stato costretto, ed è in questi minuti è costretto a stare lì sdraiato su un tavolo della sala operatoria del CTO di Firenze per questa operazione per ridurre e ricomporre la frattura duplice esposta a tibia e perone della gamba destra. Cosa è accaduto oggi? Eravamo circa a metà della seconda sessione di prove libere, Gran Premio d'Italia del Mugello. Sappiamo tutti quanto Valentino tenga a questa gara, che ha già vinto 9 volte in carriera. A un certo punto, peraltro in una zona del circuito non coperta dalle telecamere della Dorna, che è la società che produce le immagini televisive del Mondiale, la Yamaha di Valentino ha avuto uno sbandamento del posteriore, la ruota si è leggermente alzata. Questo l'abbiamo visto grazie ad alcune immagini del circuito televisivo di servizio del Mugello. La ruota posteriore si è leggermente alzata, è ricaduta a quel punto inchiodando e facendo schizzare in aria Valentino Rossi, come se fosse quasi una balestra con la sua freccia. Valentino è ricaduto pesantemente sulla sua gamba destra e tutti ci siamo accorti dalle prime immagini che ci sono arrivate della gravità dell'infortunio. Valentino era dolorante, non piangeva, ma insomma la sua faccia diceva tutto. cosa che è stata poi confermata dalla diagnosi successiva che, come dicevo, ha svolto prima il dottor Costa della Clinica Mobile, poi al CTO di Firenze, dove Valentino Rossi è stato trasportato subito in eliambulanza, duplice frattura esposta dei tibia e perone della gamba destra, addirittura la gamba si è spezzata, come ha detto testualmente il dottor Costa, peraltro con un'aria che non gli abbiamo mai visto indossare nel corso di tanti anni. Lui che l'ha vista di tutti i colori, oggi era praticamente un uomo a terra, un dottore a terra. Hai ragione. Anche tu la stessa impressione. Come no, li ha rimessi in piedi tutti praticamente, poi è uno che dice, ma vuoi che sia una botta, una frattura, ti bene, corri, esatto. Però quello di oggi è stato veramente un infortunio molto pesante, poi fa impressione appunto perché Valentino non ne ha mai subiti tanto meno di così gravi. Già operato, che tu sappia? L'operazione è in corso a Firenze, stiamo attendendo l'esito, si dovrebbe sapere nel giro della prossima ora come questa. Per quanto riguarda i tempi, dovremmo essere intorno alle 18:30 per avere un primo bollettino medico da parte dei sanitari del capoluogo. Massimo... Valentino peraltro è un pilota anche di scorza dura, nel senso che lui qualche incidente l'ha avuto nel passato, ricordiamo aver vinto anche una gara dopo aver subito una commozione cerebrale il giorno prima, quindi insomma non è uno che non è mai caduto in vita sua. No, è chiaro. Se oggi il clima era quello che era, evidentemente la botta è stata dura, vuoi per l'età, 30 anni e mezzo insomma si sentono dopo una carriera così lunga, e insomma vuoi anche appunto per quello che è accaduto. Abbiamo avuto modo di sentire anche il padre, che è accorso ovviamente subito al CTO di Firenze, Graziano, che anche lui insomma ha avuto un bello spavento, ecco, quello sì, ci ha detto che ha passato la mezz'ora più brutta della sua vita. Tra poco lo sentiamo. Grazie Massimo, buon lavoro. Ovviamente se ci sono aggiornamenti tornerò a chiedervi la linea. Siamo qui, naturale, ciao. Ti aspettiamo, ciao. Grazie a Massimo, ciao. Di Scienza, vi faccio sentire invece cosa ha detto Graziano Rossi. Valentino adesso sta come uno che si è rotto una gamba e che si è fatto una frattura scomposta e che gliel'hanno rimessa dritta, che ha sofferto per 20 minuti, ti puoi immaginare che cosa, e adesso ci vuole un tempo necessario per rimettersi a posto completamente bene prima di ricominciare. Adesso il momento triste è quasi passato. Io ho sperato una cosa, chissà che il rendersi conto che il motociclismo è uno sport un pochino cruento, chissà che non gli faccia venire voglia di correre in Formula 1. Vuoi mai? Battutaccia questa di Graziano Rossi, ma ampiamente perdonabile. Oh, come possiamo notare, sono giorni di sfiga nera per molti sportivi, da questo punto di vista. Quindi io penso che oggi non ci sia parere più utile di quello di un luminare, che è anche un amico per fortuna come Piero Volpi. Buon pomeriggio, Doc. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Grazie. Tibia e perone, frattura esposta, operazione brutta questa di Valentino Rossi, ci vorrà del tempo. Per uno sportivo è una lesione abbastanza importante, che chiaramente richiede i tempi biologici, come anche come una persona normale come noi. Teniamo presente che poi dopo uno sportivo deve anche gareggiare. Diciamo che ci vogliono, per essere molto sintetici, 3-4 mesi per rimettere, tra virgolette, in campo un atleta. È chiaro che però parliamo di uno sportivo particolare, in cui che non deve correre sopra questa gamba, sì, non deve saltare, ma deve essere messo su un mezzo, e quindi diciamo che è l'attrezzo che fa un pochettino, che sopporta tutte le sollecitazioni del carico. Comunque mondiale finito però. Diciamo che c'è anche da fare un altro discorso, che questa è una categoria un po' particolare, quella dei motociclisti, perché effettivamente ci hanno anche abituato a dei recuperi veramente che vanno al di là di quelli che sono i limiti della medicina stessa, quindi io mi limito a dire che per tutti le persone normali, e anche per gli sportivi normali, servono quei tempi di recupero, ma magari qui poi assisteremo a tempi accorciati. Vediamo all'altro campo, quello che conosce certamente come le sue tasche, quello del calcio naturalmente, perché siamo tutti qui appesi a un filo alle notizie anche qui che escono dalle infermerie, no? Grandi incertezze, azzurro in partenza per il mondiale, ai malanni di Camoranesi si è aggiunto il polpaccio di Pirlo, vista così è un rischio grosso partire con questi due, che non si sa se e come e quando potranno essere recuperati. Cosa sta succedendo? Ma diciamo innanzitutto che il dettaglio, la precisione della situazione la conoscono solamente gli addetti ai lavori, cioè l'allenatore, il medico e lo staff che sono lì con loro. Però per quello che si sente, che si legge, che si capisce, è chiaro che siamo di fronte a una manifestazione che si esaurisce in un mese. Non dimentichiamoci che se l'Italia, come tutti noi ci auguriamo, disputerà 7 partite, fra 35 giorni c'è la finale. Quindi voglio dire, anche un infortunio in queste competizioni, anche piccolo, purtroppo non dà tante chance di recupero. Venendo al gemello di Pirlo, ma se la lesione è una lesione di secondo grado, come è stata detta, che richiede ovviamente qualche settimana di riposo e poi recupero, insomma, fate i calcoli anche voi e vedete che le chance sono veramente, veramente basse. Insomma. Certo, quindi sarebbe comunque un rischio grosso dire lo porto e poi vediamo se guarisce. È vero che Baresi negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, però per una competizione che brucia appunto così in fretta. Non c'è poi tempo. Due giocatori significa avere due giocatori comunque della rosa ai quali non, per esempio la prima o la seconda partita non puoi fare magari riferimento, quindi significa ridurre. Sono scelte non semplici, devo dire, bisogna certo. Valutarle con calma, e loro, chi è lì è deputato a questo sicuramente ha le competenze, perché parliamo di persone che sono ovviamente molto esperte. Sì. Certo che sono giorni molto difficili un po' per tutti, no? Ieri la Costa d'Avorio ha perso Drogba, sperano di recuperarlo, si è rotto il gomito, l'hanno operato, c'è un paese con il fiato sospeso, l'Inghilterra invece, a maledizione della fascia di capitano, ha perso Rio Ferdinand, ma l'elenco delle defezioni comincia ormai ad essere quasi imbarazzante in tutte le squadre, Doc. Sì, perché ritorniamo al solito concetto di un calcio che è un calcio che porta questa competizione alla fine della stagione, e quindi per forza, gioco forza, e quindi si arriva anche con giocatori che recuperano da infortuni o che non arrivano in tempo perché appunto non fanno tempo a recuperare, oppure che si infortuniano nell'immediata vicinanza. Purtroppo bisognerebbe ripensare un po' a questo calcio ai calendari, alle tempistiche di gioco, a tutto, proprio perché se no si rischia effettivamente di perdere gli attori principali, e voi lo sapete benissimo che una manifestazione come questa, se vi vengono meno giocatori importanti come Drogba, come Pirlo stesso, come Rio Ferdinand, cioè parliamo di grandi campioni, certo. Insomma, viene un po' meno anche lo spettacolo, è come andare a vedere un'opera e manca il tenore naturale, il tenore più importante, Oggi ad esempio su Repubblica c'è un articolo di Emanuele Gamba che fa il bollettino di guerra di questo premondiale, oltre a quelli che non ci saranno, che sono questi più Ballack, più Trash, più Westermann della Germania, ma ce ne sono tantissimi, si è fatto male anche Bastos, terzino del Brasile, ma poi ci sono anche giocatori che vanno in condizioni assolutamente precarie, c'è la pubalgia di Kakà, la schiena di Giulio Cesare, il ginocchio di Fernando Torres, se va davanti a leggere gli adduttori di Rooney, la caviglia di Barry, il perone di Fabregas, il bicipite di Iniesta, il polpaccio di Gallasi, il piede di Skrtel, il menisco di Obi Mikkel, l'inguine di Kiwell, la coscia di Thiago, insomma sembra un bollettino dei reduci, Sì, assolutamente, ritorniamo al discorso di prima e dicevo, secondo me si gioca troppo, bisognerebbe trovare per esempio una formula. Si gioca troppo, e si gioca troppo in certi momenti dell'anno, cioè queste partite, 7-8 partite che noi siamo abituati a vedere nell'arco di 20 giorni in concentrazioni molto molto strette, quando c'è la ripresa delle coppe a febbraio e marzo, oppure all'inizio della stagione a ottobre-novembre, cioè in quei momenti lì effettivamente poi dopo tu hai giocatori che si fanno male e poi arrivi anche con infortuni molto seri e poi dopo arrivi a tempi ai recuperi lunghi e arrivi poi alle competizioni mondiali o gli europei o quello che c'è a fine della stagione con giocatori che non ci sono oppure che riprendono e sono in condizioni fisiche precarie. Dottor Volpi, io ho questo messaggio, ma è vero che può aver inciso sull'infortunio di Pirlo il passaggio in breve tempo dal Sestriere a Bruxelles? Questo lo scrive un ascoltatore. Più in generale io aggiungo, ho visto una nazionale troppo imballata per essere vera. Quanto c'è in questo nella preparazione che è stata fatta in altura al Sestriere in condizioni molto particolari? No, assolutamente, non c'è nessuna relazione fra la preparazione in altura e l'infortunio di Pirlo. Il discorso è che chiaramente 10 giorni che la squadra ha passato in quota è per cercare di trovare delle condizioni climatiche, oltre che atmosferiche, molto più vicine a quelle del Sudafrica. Non dimentichiamoci che in Sudafrica ci sono delle escursioni termiche nell'arco della giornata molto, molto, molto ampie, e poi si gioca in 2 o 3 città intorno ai 1500 metri, quindi si è voluto andare un po' vicino a quelle condizioni. Non dimentichiamoci che 10 giorni non sono sufficienti per cambiare la situazione fisiologica di un atleta per poter, diciamo, compensare delle prestazioni in altura, quindi non, assolutamente nulla di questo. Invece riguardo la condizione fisica, lei ha perfettamente ragione. Abbiamo visto, adesso vedremo questa sera, ma abbiamo visto l'Italia un po' così sulle ginocchia, ma probabilmente, come ha detto l'allenatore, giustamente per gli sforzi di preparazione. Io però qui aprirei un altro dato importante che bisogna tenere in considerazione. Purtroppo, quando si arriva a questa fase dell'anno e si preparano, si fanno le liste per i giocatori che devono andare poi in competizione, bisognerebbe tener conto forse un po' di più delle condizioni fisiche, cioè si fanno dei test, si fanno delle valutazioni, ma purtroppo il problema è che quando tu arrivi con un giocatore che è un pochettino sulle ginocchia è difficile in poco tempo rigenerarlo, hai troppo poco tempo, quindi le scelte devono essere tecniche ma devono essere anche fisiche. Verissimo, ma infatti molti giocatori sono stati portati a Sestriere quando erano già a rischio, quando erano già spremuti, quando erano già mezzi infortunati, e di questo non è stato forse tenuto adeguatamente conto. Però ripeto, ma per farci coraggio tutti insieme, è quasi normale che questo sia il momento peggiore, no? Se hai fatto un lavoro di questo tipo. Se andiamo a vedere nel nostro passato, l'Italia ha questo tipo di situazione, cioè di un premondiale o un pre-europeo sempre abbastanza, diciamo, non dico disastroso, ma insufficiente. Ricordiamoci quello che è successo nell'82, ricordiamoci gli stessi 4 anni fa prima della Germania, quindi voglio dire, poi dopo noi siamo bravi, diciamo, a un pochettino a ritemprarsi e a rigenerarsi nelle difficoltà, come hanno dimostrato gli ultimi mondiali. Speriamo che anche questa volta sia così, però ci deve essere un minimo di condizione, perché sennò è difficile. Ricordiamoci che questo sarà un mondiale fisico, e attenzione alle squadre africane, attenzione alle squadre che hanno delle componenti fisiche, perché si gioca un po' in altura, un po' a Città del Capo a livello del mare, e lì saranno i primi 20 minuti, perché attenzione, perché poi è questo, i primi 20 minuti di adattamento alla partita, di adattamento del fisico del giocatore che dovrà entrare in partita, perché lì si sente veramente poi questa situazione, quindi sarà un mondiale, io penso, più fisico che tecnico. Sono d'accordo, grazie dottore, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie davvero, Piero Volpi. Questo, abbiamo dato una chiave di lettura che mi sembra molto interessante, a me l'ho trovato interessante al mondiale che sta per cominciare, un mondiale fisico, un mondiale al quale l'Italia si avvicina in condizioni preoccupanti, stando alla partita dell'altra sera, che il Messico sembrava il Brasile di Pelé anche come velocità, cioè andavano al doppio i messicani, onestamente. Però bisogna tenere conto anche del fatto che dopo il lavoro che è stato fatto, probabilmente in questo è il momento, questi sono i giorni peggiori e più difficili. Il test di questa sera con la Svizzera, secondo me, sarà proprio importante nella valutazione di come stanno i giocatori sotto questo aspetto. Mondiali iniziano venerdì, noi ci saremo con gli speciali, con A Tempo di Sport tutti i giorni dalle 14 alle 15, come ormai da 1000 anni a questa parte, con Gigi Garanzini. E poi, per quanto riguarda in particolare la programmazione speciale, al sottoscritto toccherà una trasmissione particolare 21, 22 e 30, tutte le sere da lunedì al venerdì, per raccontarvi i mondiali in diretta. Io chiudo invece questo programma, che rimarrà invariato come orari anche nel periodo dei mondiali, quindi 17-18 al sabato, 17-19 la domenica. Questo programma lo chiudo parlando con gli ascoltatori. Alessio da Prato, Luca, poi Bruno. Buongiorno Alessio. Buongiorno e grazie dell'opportunità. Volevo solamente ringraziare Francesca Schiavone, perché dopo tanti anni da tifoso, da amante di questo sport, devo dire che oggi mi ha restituito emozioni che non mi ricordavo da tanti anni, nel senso che da adolescente ho seguito tantissime partite sul divano dei nostri tennisti e non ho mai avuto la soddisfazione di veder vincere un grande slam. Invece oggi veramente una grandissima soddisfazione. Io mi ero un po' allontanato da questo sport perché non mi piace molto il tennis odierno, per colpa mia naturalmente. precedente, perché non mi piace molto il tennis muscolare, ancora amante del vecchio tennis, però oggi devo dire che chi ha visto la partita della Schiavone oggi è tornato a amare il tennis, secondo me, perché specialmente nel tie break, ma anche altri scampoli di partita, sono stati di altissimo sì, valore vero. Tecnico di altissimo valore tecnico tennistico, è vero. Sì, ha giocato veramente un tie break fantastico, è una cosa emozionante, mi sono ritrovato a mettermi le mani nei capelli, non me ne sono nemmeno accorto quando ha fatto il punto decisivo dall'emozione, è stata un'emozione grandissima, la ringrazio. Grazie a lei per il suo intervento, e naturalmente via etere giriamo questi ringraziamenti a Francesca Schiavone. Si immagini lei come invece possono ringraziare la tennista italiana due scommettitori che hanno puntato sulla Schiavone. Allora, leggo l'agenzia che aveva appena uscita, la vittoria di Francesca agli internazionali di Francia fa felice anche due scommettitori che prima dell'inizio di Roland Garros avevano puntato alla SNAI sul successo finale della tennista italiana, che era quotata a 150, era quotata a 150. Alla SNAI infatti risultano giocati prima dell'avvio del torneo 7 euro in tutto sulla Schiavone vincente, uno scommettitore ha giocato 4 euro e l'altro ne ha giocati 3. Ora ne beccano il primo 600 e il secondo 450. Mica male. Luca, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, volevo intervenire per quanto riguarda, diciamo, le cadute nel motomondiale. A me dispiace molto che, diciamo, Valentino sia fuori per un po' di gare, perché lo spettacolo sicuramente ne risentirà. Però volevo anche fare un altro tipo di ragionamento. L'anno scorso, quando il signor Lorenzo è caduto, si è fatto male a tutte e due le caviglie, non mi pare che ci sia stata la stessa attenzione mediatica. E alla fine è un corridore come Rossi. Ma sì, no, certo, Luca, però per ovvie ragioni l'infortunio di Valentino Rossi. A proposito di infortuni, sottolineo un ascoltatore, sto vedendo le immagini in questo momento per un mondiale che sembra fatto per i reduci del Vietnam, anche Robben out, perché si è fatto male in maniera piuttosto seria ad un ginocchio nell'ultima amichevole premondiale. Quanto a Valentino Rossi, da tifosi ci colpisce, ma non è che l'anno scorso abbiamo messo fuori le bandiere, si è fatto male Lorenzo. Infortuni di questo tipo a sportivi, insomma, sono da salutare con il giusto atteggiamento, a prescindere da chi si fa male. Tanto che prima ho letto un messaggio estremamente antipatico, che è questo. Da tifoso antirossiano, considerando la vittoria della Schiavone, dico che oggi è una splendida giornata. Questo messaggio mi sembra una discreta idiozia. Cioè, splendida giornata, perché Valentino Rossi si è spezzato una gamba con una frattura brutta. Non fosse stato Valentino Rossi e fosse stato Stoner, sarebbe stata la stessa cosa, identica, perché è uno sportivo che si fa male in modo serio mentre corre. Dunque è così. Bruno da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho un grande rammarico, quello di non aver seguito la partita della Schiavone. Sono un appassionato di tennis, sono veramente a pezzi perché non ho seguito la partita, però seguo la Schiavone da tanto tempo. Devo dire che questa è una vittoria non solo della tecnica, del braccio, ma soprattutto della motivazione, del fatto di crederci. Sì. Io sono uno psicologo, non sono uno psicologo dello sport, però se ci riflettiamo un attimo, la Schiavone da tanti anni fa arrabbiare i tifosi di tennis. Perché? Sì, perché... Perché come guardi Bruno, purtroppo devo chiudere il programma, anche se il discorso era estremamente interessante. Ha fatto arrabbiare la Schiavone come le altre tenniste azzurre che arrivavano lì ad un passo e poi crollavano. Però io credo che le tante vittorie nella Fed Cup abbiano costruito anche la mentalità vincente di queste ragazze. Oggi la Schiavone aveva l'aria, ma ripeto quanto ho detto all'inizio, bastava guardarla in faccia per capire che avrebbe vinto questa partita. Bastava guardarla in faccia nei primi equilibratissimi giochi di questo incontro, non ha mollato nulla, ha giocato una partita semplicemente straordinaria. Ci fermiamo qui e ci sentiamo domani eccezionalmente, con un'ora di sconto sulla programmazione, ma solo domani, perché poi torneremo la domenica con due ore, domani dalle 5 alle 6, quindi vi aspetto. Grazie a Fabio, a Carmelo Lauricelli in regia e a Giorgio De Luca in redazione. Adesso la linea al GR, buona serata a tutti.